Sullo scenario internazionale penso che possiamo dire con una qualche serenità, tra virgolette, che il peggio è alle spalle. Credo che in vari settori si intravedano finalmente dei più in termini di produzione industriale, in termini di fatturato, in termini di ordini, in termini di esportazione, quindi probabilmente il peggio è alle spalle, probabilmente, come dire, non rientreremo a livello nazionale ma anche internazionale in una seconda recessione, ma, e questo rimane una cifra chiara e lo sarà dal nostro punto di vista anche per i prossimi anni, siamo comunque in un quadro di incertezza, la visibilità che abbiamo davanti è limitata, siamo in una fase in cui c'è molto differenziazione di capacità di crescita nelle diverse aree del globo e appunto ci sono anche dati contrastanti, per cui questo tema dell'incertezza rimarrà una costante con la quale avremo a che fare. La scorsa settimana il Centro Studi di Confindustria ha presentato le sue previsioni che parlano di una crescita del PIL per l'Italia nel 2010 dell'1,2% e una crescita del PIL per l'Italia nel 2011 dell'1,3%. Questo dopo aver perso tra 2008 e 2009 oltre il 6% di PIL. La situazione è che noi siamo stati fortemente colpiti dalla crisi, quando si dice che questo non è stato, che noi siamo andati meglio di altri paesi, non è vero, noi siamo stati fortemente colpiti dalla crisi, è venuto il momento di fare una reale politica di crescita. Se il nostro Paese non raggiungerà livelli di crescita almeno al 2% di PIL all'anno, noi non riusciremo a riassorbire la disoccupazione che abbiamo, noi non riusciremo a tenere in piedi il nostro tessuto produttivo, che è un tessuto importante, bello, dove c'è proprio una cultura del lavoro, del fare le cose belle molto importanti, e noi non riusciremo ad aumentare il benessere di tutti. Quindi noi chiediamo che il Paese si concentri su questo tema della crescita. L'ho detto tante volte, lo voglio ripetere anche qui, a noi non interessano i conflitti personali della politica, i problemi di cui sentiamo parlare, vediamo pieni giornali. Noi vogliamo che la politica si concentri sulla crescita e sull'occupazione. Lo continueremo a dire, non siamo sciocchi, sappiamo che viviamo un momento di grande incertezza politica, di grande instabilità politica, ma la competizione, i problemi dell'occupazione non attendono i risultati dei passaggi di parlamentari da una parte all'altra, i problemi della crescita, dell'occupazione, della competizione globale richiedono risposte immediate, vere, concentrazione su questi problemi. Quindi su questo noi continueremo a essere una voce che richiama su questi temi, che sono poi i veri temi che interessano ai cittadini, agli imprenditori e ai lavoratori.